follia, amarci bimba mia, con tanto ardor. Il nostro grande amore, con tutto il suo splendore, ha troppo male al cuore, tronchiamo allor. Prendo ognuno l'opposto cammino, portando un ricordo con sé, rassegniamoci al nostro destino. Perché, perché è stata una follia, soltanto una follia, amarci bimba mia, con tanto ardor. Così t'ho lasciato, ed ora che tu un altro hai amato, soffro ancora di più. Se penso a quei baci, mi par di morire. È stata una follia lasciarci bimba mia, ed or la gelosia mi brucia il cuor. Io t'amo t'amo ancora, io t'amo più d'allora, il cuore mio t'adora e piange ancor. Io trascino così il mio dolore, più gioia nel mondo non v'è, e le cose non han più calore per me, per me. È stata una follia, soltanto una follia, che va la vita mia senza di te.